il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Come annunciato la scorsa settimana, oggi al Quadrifoglio abbiamo ospite Gianni Gaggiani, ideatore di Grow the Planet, un'idea innovativa che a partire da Catron, nell'incubatore di idee di Itch Farm, è partita alla conquista del mondo di Internet. Di che cosa si tratta? Ce ne parlerà a breve lo stesso Gaggiani, ma prima lasciamo la parola a Fabrizio Stelluto, presidente dell'Associazione Giornalisti Agricoli e Ambientali del Veneto e del Trentino Alto Adige, che sabato 7 dicembre ha consegnato a Grow the Planet l'annuale premio che l'associazione assegna a personalità che fanno crescere la nostra regione. Fabrizio Stelluto. Il premio ARGAV 2013 è stato assegnato a Gianni Gaggiani, ideatore di Grow the Planet, start-up di Itch Farm, l'incubatore che ha sede a Catron, in provincia di Treviso, per interpretare in chiave costruttiva, pratica ed etica le opportunità offerte dalla rete. Un sito come una canzone non può cambiare il mondo, ma è pur vero che solo dal confronto, soprattutto se planetario, possono nascere i cambiamenti. Non credere unicamente nelle opportunità del virtuale, ma abbinarvi l'esperienza diretta sul campo, è la strada corretta per ricordarci che la Madre Terra non ha un avatar, ma è una realtà unica ed irripetibile. Imparare a goderne dei frutti, coltivandoli, è un esercizio di igiene mentale in una società che per troppo tempo ha dimenticato che senza acqua, aria e cibo non esistiamo. I nostri complimenti a Gianni Gaggiani. Grazie a Fabrizio Stelluto per aver letto le motivazioni del premio. Ora però diamo la parola al premiato. Gianni Gaggiani, che cos'è Grow the Planet? Grow the Planet è una piattaforma che aiuta tutti a coltivare le piante, con il focus sulle piante edibili, cioè quelle che possiamo mangiare, ortaggi, frutta, verdura, piante aromatiche, con la speranza di poter estendere i nostri servizi a tutte le piante in generale. La piattaforma ospita un social network dove le persone possono scambiare la loro esperienza, possono in una sezione apposita farsi le ossa, imparare tecniche, trucchi e quant'altro serva per coltivare al meglio le nostre piante, ma il cuore del sistema è una sezione che si chiama Coltiva, all'interno della quale è possibile disegnare il proprio spazio di coltivazione, scegliere le piante che vogliamo coltivare nella vita reale, far partire un diario di coltivazione che da quel momento in poi ci guiderà passo dopo passo dalla semina alla raccolta, con consigli quotidiani su come ottenere il meglio dalle nostre piante. Guidare passo dopo passo significa che ogni giorno arriva a chi ha deciso di seminare determinate cose consigli, indicazioni su che cosa c'è da fare. Esattamente, in base alla specie, alla pianta, all'ortaggio che vogliamo coltivare, il sistema si adatta, soprattutto si adatta alla nostra posizione geografica e in base al clima della nostra zona anticipa o posticipa le lavorazioni proprio tenendo conto del clima del luogo. A chi si rivolge quindi? Ovviamente non a professionisti dell'agricoltura, ma a gente che magari ha intenzione di sviluppare un proprio orto in uno spazio che ha, quindi ha degli hobbisti, diciamo, della coltivazione. Vero, ma non solo, noi ospitiamo in forme diverse anche professionisti, ma il nostro cuore sono appunto gli utenti, gli amatori e gli hobbisti di questo di questa splendida passione. Da noi viene chi ha esperienza e può insegnare ai meno esperti la propria esperienza, appunto, oppure vengono i giovani, quelli che si approcciano a questa passione ma non hanno ancora gli strumenti e la conoscenza per mandare avanti un orto al meglio. Grazie a Grow the Planet si fanno l'esperienza e trovano tutto ciò che occorre per coltivare un proprio orto. Voi siete cresciuti in un paio d'anni da cui siete partiti ad avere un centinaio di migliaia di soci, non so se si dicono soci, comunque di iscritti, da tutto il mondo tra l'altro, ecco, questa attenzione è un ritorno verso l'agricoltura, come la spiegate questo interesse? Dunque, l'interesse non solo non riguarda solamente il nostro paese, ma riguarda un po' tutto il mondo, Stati Uniti in primis, e secondo me frutto di due caratteristiche. La prima è una più forte sensibilità agli argomenti green, agli argomenti che riguardano il nostro ambiente e alla ricerca di alternative a questo sistema. L'altro non è un ruolo minore, diciamo, la crisi economica che ha spinto molte persone a cercare alternative anche che aiutino i conti familiari e ammortizzino un po' i costi a fine del mese. Quindi l'orto in questo senso può essere un ottimo aiuto. Ecco, da dove sono principalmente gli iscritti al vostro network? Ovviamente siamo nati in Italia e qui in Italia abbiamo il nostro cuore, il massimo dei nostri utenti. Diciamo che circa il 75% degli iscritti, dei quasi 100.000 iscritti, provengono dal nostro paese, però siamo molto forti anche nei paesi anglosassoni, Stati Uniti e Inghilterra in primis. Non mancano anche sudafricani e australiani. Facciamo una breve pausa, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Let me rewind through the past. torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi abbiamo ospite Gianni Gaggiani, ideatore di Grow the Planet. Ecco, parlare di agricoltura e di online, di internet, di web sembra una cosa un po' strana, perché forse il settore agricolo è quello che forse ci sta avvicinando con più difficoltà, ma al di là di Grow the Planet, quale può essere il futuro del settore agricolo e il web? Direi sarà il futuro con la F maiuscola, perché come tutti gli aspetti, i fenomeni che riguardano la nostra vita sia normale che professionale, il web andrà a interessare anche l'agricoltura. Lo faremo soprattutto come strumento di diffusione, ma non solo, soprattutto come strumento di vendita. Per questo Grow the Planet si sta attrezzando anche come marketplace per gli agricoltori che vorranno usufruire dei nostri servizi. Ovvero chi vuole vendere, commercializzare determinati prodotti o altri servizi lo può fare anche attraverso questo sito. Esattamente, noi stiamo piano piano costruendo una community molto interessante, soprattutto per chi lavora nel settore da un punto di vista professionale, perché è vero che i nostri sono utenti che coltivano un orto, ma sono principalmente consumatori di prodotti della terra, attenti alla qualità del prodotto, al chilometro zero, al bio e alla stagionalità. Quale community migliore per vendere i propri prodotti? Certo. Ultima domanda, come si accede al vostro sito e come ci si può iscrivere? Il sito è completamente gratis, potete raggiungere www.growtheplanet.com, potete iscrivervi velocissimamente con un account di posta normalissimo oppure con il vostro account di Facebook. Grazie. Grazie a voi. Passiamo ora ad alcune notizie. Si chiama Boschi a Natale, un'iniziativa di visite ai parchi veneti proposta dall'assessorato ai parchi della Regione e dall'Unione del Proloquo del Veneto. Si tratta di visite guidate gratuite in 7 boschi di montagna e di pianura, uno per ciascuna provincia, che si concludono con assaggi di prodotti tipici del territorio. Le visite sono iniziate l'8 dicembre e proseguono anche domenica 15 e 22. Ne sono previste 2 per ciascun bosco, una al mattino alle ore 10 e una alle ore 14. Per ogni visita è gradita la prenotazione 3 giorni prima ad uno dei seguenti numeri: 0438 893 385 oppure 334 293 6833. Domenica 15 dicembre è la volta del giardino botanico di Rosolina e del bosco di Mestre. Domenica 22 dicembre tocca invece alla foresta del Cansiglio e al parco delle sorgenti del Bacchiglione di Due Ville e al giardino vegetazionale di Astego presso Crespano del Grappa. La PAC verso verso il 2020 è il tema che si dibatterà venerdì 13 dicembre a Verona nell'ambito di un seminario interregionale organizzato da Agri Insieme per analizzare le problematiche aperte dopo che il Parlamento europeo ha approvato i regolamenti relativi alla riforma della PAC 2014-2020. Il seminario si tiene al Centro Agroalimentare di via Somma Campagna 63 a Verona. Giovedì 19 dicembre si tiene invece a Rovigo un importante convegno promosso dalle Confagricoltura di Rovigo, Padova e Vicenza sul tema mais tra OGM e microtossine, come uscire dai luoghi comuni e rilanciare la coltura. Le conclusioni saranno tenute da Gian Giacomo Bonaldi, presidente di Confagricoltura del Veneto. Il convegno si tiene nella sala Bisaglia del CENSER in viale Porta Adige 45 a Rovigo con inizio alle ore 9.30. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con il quadrifoglio. Vi ricordiamo che ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.